1980, dai microfoni di Radio Alto Ferrarese, Paolo Giatti presenta la consueta rubrica di cinema. Nella puntata di questa sera ci occuperemo di film musicali, prevalentemente, visto e considerato che si sta chiudendo la rassegna organizzata al Cinema Argentino. Non so se voi l'abbiate seguita fin dall'inizio, comunque la rassegna comprendeva un po' un discorso storico sui generi musicali. C'erano i film o il film prototipo degli anni 50 che era Cantando sotto la pioggia, il film prototipo del musical 60 West Side Story e infine si arrivava agli anni 60 e 70, gli anni 60 con l'ultimo valzer che prendeva le mosse dall'inizio della band di Dylan, 70 con l'era dell'Aquarius. Negli anni dal 70 all'80 di film musicali veri e propri forse non ce ne sono stati, anche per un progressivo decadere del genere. Nel senso che la caratteristica del film musicale è stata sempre quella di avere una trama dove accanto ad alcune parti recitate o parlate ne sussistevano altre cantate, un po' come nell'opera lirica le romanze o come nell'operetta alcune parti di solito con dialoghetti d'amore o drammatici. Più o meno questa struttura del musical è rimasta inalterata a lungo, solo recentemente si è avuta un'evoluzione. Tra l'altro il musical in Italia non ha mai incontrato molto successo, probabilmente perché il pubblico italiano è notoriamente ostile a quelli che sono i generi musicali di qualsiasi tipo essi siano, detesta abbastanza caldamente sentir cantare, un po' perché non è educato alla musica e un po' perché oggettivamente il tipo di canzoni e il tipo di coreografia che di solito accompagna questo genere di cose non è precisamente quello che piace al pubblico italiano e si è visto anche con West Side Story, di cui però si può dire dopo il primo intervento musicale. Thank you. Che ci siamo appena ascoltati era la colonna sonora appunto di West Side Story e la canzone era Tonight. Dicevo appunto West Side Story, un film assolutamente melenso, però c'è da dire una cosa, riflettiamo un momento appunto all'evoluzione del musical. Negli anni 50, prendendo Cantando sotto la pioggia come esempio tipico di quel genere, direi che il musical godeva di intanto una maggior popolarità, un po' perché il genere era nuovo, un po' perché chi si produceva in questo genere di imprese aveva anche la mentalità per farlo, un po' perché i gusti del pubblico, tutto sommato, nell'immediato dopoguerra erano più semplici. Il film cosiddetto di evasione e di evasione musicale poteva anche essere appetibile. Negli anni 60 si assiste ad una fase di stanca, anche perché bisogna sempre tenere presente che le radici del musical cinematografico sono nel teatro e soprattutto in Broadway. Infatti quasi tutti i film musicali hanno, oltre che un richiamo esplicito nella trama al teatro, anche una dimensione tipicamente teatrale. Lo si nota in Cantando sotto la pioggia, che parla appunto delle vicende cinematografiche, però ambientate tutto sommato negli studi. Parla anche esplicitamente di tutta una serie di marchingegni che hanno più del teatrale, con le camere fisse, i numeri che si svolgono sotto i riflettori in maniera molto statica, e quindi una concezione abbastanza lontana ancora da quella del cinema. West Side Story, poi è evidente che a parte la veduta aerea di New York dall'alto non c'è nient'altro che giustifichi una dimensione ampia. I balletti e lo si vede anche in Air, sono fatti assolutamente per gli spazi ristretti. Si assiste appunto all'andare avanti e indietro dei ballerini secondo movenze rese canoniche da un certo tipo di danza e che sono fatte per la piccola dimensione del palcoscenico. E vorrei arrivare agli anni 80 parlando di All the Jazz, il film che si è visto lunedì al cinema argentino, un film che tutto sommato io ho trovato abbastanza interessante, intanto per l'evoluzione nella tecnica del balletto. Va bene, il balletto era forse un po' troppo montato, si esagerava come sempre nel dare dei toni epici ad ogni cosa. D'altra parte è anche vero che un fondo di verità indubbiamente esiste nel duro tirocinio a cui si deve assoggettare un ballerino in America. Altra cosa, altra difficoltà di recepire questo genere di cose nasce dal fatto che in Italia non abbiamo una tradizione di balletto perlomeno moderno. C'è tutta una scuola che praticamente consente di ballare addirittura nelle strade e di ballare qualsiasi azione teatrale o no. Anche per questo, ad esempio, Bob Fosse in All the Jazz, che è una traduzione così corretta, direbbe tutto questo è spettacolo, dicevo, riesce a coreografizzare, ammesso che si possa dire così, anche uno spettacolo come la morte. Noi italiani naturalmente possiamo trovare di cattivo gusto questo genere di cose che al massimo hanno dei corrispettivi nelle laude medievali con processioni e teschi, che da noi quindi assumono un carattere di macabro strettamente legato alla cultura religiosa cattolica, mentre in America c'è questa dimensione dello spettacolo per cui qualsiasi atto, a morte compresa, diventa una rappresentazione. Non a caso il protagonista del film di Bob Fosse ripete ossessivamente ogni mattina il rito di truccarsi quasi e prima di uscire batte le mani e dice in scena, a dimostrazione evidente che la concezione americana della vita è estremamente più vicina a quella dello spettacolo che non la nostra. Ed ecco perché, e torniamo al discorso del film musicale, noi difficilmente riusciamo a entrare nella logica americana, dove quello che importa è la maniera in cui si è reso a livello spettacolare un determinato sentimento, una determinata azione. Cioè non è tanto il discorso del adesso cantiamo una bella canzone oppure facciamo un bel balletto, quanto il discorso di vediamo come con una canzone o con un balletto si può risolvere quella che è la situazione, che so, degli amanti al balcone tipo Giulietta e Romeo o qualsiasi altra situazione. Ecco, semmai il difetto di West Side Story è quello di avere preso, per drammatizzarle, delle situazioni stereotipate, come quella appunto della scena del balcone, come quella, che so, della guerra per bande, a parte che questa forse non è poi una soluzione tanto stereotipa, ma l'è diventata solo in seguito con l'allargarsi del fenomeno. Quindi semmai il difetto di West Side Story sta proprio in questo voler prendere a base della storia delle situazioni ampiamente scontate che a livello di trama non possono soddisfare. Però se uno guarda come sono realizzate, ad esempio c'è la scenetta in cui i ragazzi mimano tutta la storia di un delinquente, da quando viene catturato per la prima volta, processato, messo in casa di correzione, la sua uscita, l'incontro con la madre, tutta quella scena, che tra l'altro senza i sottotitoli difficilmente comprensibile in italiano, è veramente un piccolo capolavoro di concisione e di resa del fenomeno stesso, con anche una certa acutezza. D'accordo, Uno dirà che specialmente nelle scene di lotta fa un po' ridere quando vedi la gente che viene avanti tutti insieme, si ferma e schiocca le dita a tempo, perché noi non lo consideriamo serio. Però non è la realtà che noi dobbiamo prendere come punto di riferimento per considerare la validità di questa scena, ma è lo spettacolo. Cioè, dobbiamo immaginare questo tipo di scena teatralizzato e vedere in che misura teatralizzando questo è reso più o meno bene. È chiaro che a questo punto il nostro giudizio potrà, senz'altro lo è, anche negativo, perché indubbiamente ci sono delle soluzioni che a 20 anni di distanza mostrano ampiamente l'usura. Se uno confronta i balletti di Cantando sotto la pioggia, di West Side Story, di Air e quelli di Old Dead Jazz, scopre indubbiamente che c'è stata un'evoluzione all'interno del genere, e l'evoluzione è poi tipica di qualsiasi arte. Il valore quindi di film come questo sta nel valore storico, nel poter isolare quel frammento che di per sé ha senso e collegarlo a tutti gli altri. È chiaro quindi che questo si deve proporre una rassegna, il dare una prospettiva, e non tanto il, se è possibile magari ottenere anche questo, ma dicevo, non tanto soddisfare il bisogno momentaneo di divertirsi. È chiaro che poi ci può essere anche questo. In questo senso la rassegna, a mio parere, è servita. È chiaro che probabilmente altri prodotti, e devo dire che, ad onore del vero, io avevo scelto altri film, purtroppo quegli altri film non sono stati reperiti, sempre per le solite leggi di distribuzione che regolano anche il prodotto cinematografico. Dicevo, con altri prodotti il discorso sarebbe stato migliore. Purtroppo il prodotto è questo, e occorre accontentarsi anche di film in cui si assiste a battute che magari prese in sé potrebbero essere divertenti, ma proprio perché paradossali, tipo quella scena in cui lui, a parte che sostanzialmente ci fa la figura del salame, in quella scena in cui lui chiede a lei: chiedimi quello che vuoi, e lei, di fronte a una proposta così totale, non sa rispondere altro che stringimi. Direi che una battuta del genere già di per sé meriterebbe di essere sottolineata 7 volte, se non altro per gli effetti comici che ne derivano. Vabbè, lasciamo perdere. Thank you. qual è l'evoluzione del musical o del film musicale oggi? Direi che c'è un rovesciamento di prospettiva. Mentre una volta c'era una trama inframmezzata da canzoni, infatti fino a All the Jazz il discorso è questo, adesso si sta assistendo praticamente dal Festival di Cannes dell'anno scorso a un proliferare di film dove in primo piano c'è la musica, ovviamente fatta da complessi famosi, con un'esilissima trama di fondo. Ricordo un po' certi disco film dei Beatles, pretesto per le canzoni del Quartetto di Liverpool, però quei film di Richard Lester di solito avevano anche un certo spessore ironico e anche sociologico, che era quello della Swinging London. Questi film invece sono più che altro un pretesto per ascoltare ad altissimo volume della musica, vedendo allo stesso tempo le immagini dei divi preferiti. Tanto per darvi qualche titolo, tra l'altro qualche titolo di quelli che avevo messo anch'io in richiesta ma che non sono stati reperiti, proprio perché sono ancora evidentemente in prima visione, oppure sono distribuiti non uniformemente sul territorio nazionale. C'è Radio On di Chris Petit, prodotto da Wim Wenders, che è una sorta di road movie, un film dove, intervallati a una storia di strada, ci sono i complessi dei Rolling Stone, dei Devo e David Bowie. Un po', se voi siete andati a vederlo, come in Blues Brothers, un film che ha già battuto ogni record di incasso e che vede allineate in questa storia, che non è solo una storia musicale, le vedette del blues antiche e nuove, tipo Aretha Franklin, Ray Charles e altri, nella cornice appunto di questa America che riserva sempre delle sorprese, rivisitando periodicamente i suoi miti. Altri titoli sono Tandem Highway, dove Mick Jagger, il leader dei Rolling Stone, fa il ragazzo padre. Poi c'è Cha Cha Cha, un film che ha come trama filo conduttore quella dei film polizieschi. Poi c'è Rockers, dove un'intera parata dei più grandi artisti reggae si succede sullo schermo, ed è stato girato quasi interamente a Kingston in Giamaica. Altri titoli che tra l'altro stanno venendo presentati in una rassegna a Lecce sono, oltre appunto a questi citati, Radio On, Cha Cha Cha, anche Babylon, del regista italo-inglese Franco Rosso, prodotto dal figlio di Joseph Losey. Anche questo ha un ambiente poliziesco e parla di carnevali giamaicani, anche lui quindi ambiente reggae. Questi film di solito sono distribuiti da piccole case come la Giangi Film, l'Angelo Azzurro di Bologna, la Gold Film di Firenze. Per questo sono poco conosciuti dagli esercenti e snobbati dalla grande distribuzione. Tra questi, distribuiti appunto dalle cooperative che ho appena citato, ci sono The Kids Are All Right di Jeff Stein, che è una epopea autobiografica degli U. Poi c'è il caso di Rude Boy, dell'inglese Jack Kazan, distribuito dall'Angelo Azzurro, sullo sfondo di una Londra degli anni 70 e con i Clash, un noto gruppo punk rock londinese. Poi Robbie Robertson, che voi avete visto come chitarrista nella band di Dylan nel film di Scorsese, fa un film, Kearney, e in questo film si succedono anche attori e cantanti come Paul McCartney, Alice Cooper, Fleetwood Mac, Chuck Berry e Brian Eno. Poi ci sono i Ramones che stanno facendo un film anche loro, si chiama Rock and Roll High School, e i Sex Pistols che tra l'altro hanno fatto un film molto interessante su come si crea una vedette rock, praticamente raccontando la loro storia, un film molto provocatorio, un film che difficilmente riusciremo a vedere, anche perché è molto sfocato. Poi ci sono invece le grosse case di distribuzione che si stanno accorgendo del fenomeno film musicale e che, dopo aver prodotto alcuni film degni di nota come Nashville e Woodstock, stanno producendo ad esempio Rhodey. Rhodey vede allineati Blondie, Alice Cooper, i Meatloaf e Michael Ventura. E la regia qui è di Alan Rudolph, che è stato aiuto montatore di Alton proprio in Nashville e autore di Welcome to Los Angeles. Robert Stewart sta poi producendo un film che si chiama Times Square, nella cui colonna sonora emergono i Pretenders, i Roxy Music, i Talking Heads, Lou Reed e Patti Smith, per non parlare poi di Xanadu di Michael Beck, un roller musical con Olivia Newton-John e Gene Kelly sui pattini a rotelle. Quindi, come si vede, un panorama molto vario che forse arriverà anche sui nostri schermi a confermare la vitalità della musica, se non del cinema musicale. Direi che il tempo a nostra disposizione è ormai scaduto, di conseguenza io, invitandovi ancora una volta a seguire questa rubrica di cinema che va in onda tutti i venerdì dai microfoni di Radio Alto Ferrarese, senza naturalmente dimenticarvi di andare anche al cinema, vi saluto e vi ricordo soltanto che domenica qui a Bondeno presso il Cinema Argentina potete vedere Gloria, un film di John Cassavetes con la sua interprete preferita Gina Rowlands, quindi un film di tutto rispetto che penso valga la pena di andare a vedere. Io vi saluto, a risentirci quindi alla prossima settimana con questo programma di cinema. Now I don't care what the weatherman says, when the weatherman says it's raining, you never hear me complaining, I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points, when the weather vane points to gloomy, it's got to be sunny to me when your eyes look into mine. Oh, jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh, gosh, I'll get up. I'd get so lit up, gosh, I'll get up, had to get that size. Oh, golly gee, when you turn the heaters on, woe is me, got to put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how's the hypnotize? Yes, where'd you get those eyes, gate? Where'd you get those eyes, that? Where'd you get those eyes? Ba-ba-da-dee-da-doo-doo-doo-doo-doo. There's those eyes. Thank you.